Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata che si preannuncia molto interessante, ricca di ospiti anche molto, molto conosciuti. Io sono Patrick Urlu, sono bibliotecario della biblioteca che lavora, la biblioteca Claudio Augusta, che ha organizzato questa serata e questa iniziativa, e quindi vi do il benvenuto. Come detto, i relatori sono tanti, quindi non vi voglio rubare molto tempo. Vi ricordo che la collega Karin, anche lei bibliotecaria qui alla biblioteca, ha preparato ha portato dalla biblioteca alcuni testi inerenti all'argomento di questa sera, che si possono prendere in prestito, quindi anche questa sera chi vuole può prendere i libri in prestito. Lì vedo anche delle copie del libro che forse saranno in vendita a fine serata, mi conferma l'autore, sì. Quindi chi vuole invece acquistare il libro a fine serata può rivolgersi direttamente all'autore a prezzo scontato, quindi approfittate. Come dicevo, vi ricordo solo i prossimi due appuntamenti che la biblioteca Claudio Augusta organizza. Giovedì riprendiamo con una serie, diciamo così, di incontri dedicati alla piattaforma BiblioWeb, che è questa piattaforma dove gli utenti possono scaricare ebook, leggere quotidiani, leggere riviste, tutto gratuitamente. L'importante è essere iscritti alla nostra biblioteca. Questo accadrà giovedì nella sala grande della biblioteca qui al piano zero, dalle 16 alle 17, quindi l'incontro è aperto a tutti, chi vuole partecipare è il benvenuto. Venerdì invece alle ore 18 in questa sala avremo un'altra presentazione, avremo una conferenza con il centro l'istituto di psicosintesi dedicato al potere della scrittura, quindi vi invito anche a questa nuova serata numerosi. Questo è tutto. Noi come sempre registriamo l'audio delle serate e poi le pubblichiamo sul nostro sito, quindi se conoscete qualcuno che per qualsiasi impegno oggi non è potuto essere qui, informatelo che sul sito della biblioteca potrà ascoltare, riascoltare insomma l'audio di questa serata. Io mi fermo qui, lascio la parola a Daniele Maganin e vi auguro una buonissima serata. Grazie. Grazie Patrick. Vi presento innanzitutto gli ospiti che sono qui seduti al tavolo, anche se per qualcuno non c'è bisogno di presentazione, per nessuno di loro, perché sono dei personaggi conosciutissimi nell'ambito sportivo e non solo, anche religioso, soprattutto religioso per quanto riguarda Don Paolo Renner. Parto da Giorgio Cagnotto, commissario tecnico della Nazionale, atleta con 4 medaglie olimpiche, Christopher Sacchin, atleta a sua volta plurimedagliato, oggi tecnico di Forza ai Carabinieri, giusto? Sì. Bisogna sottolinearlo perché i corpi militari sono e restano fondamentali per la gestione dello sport in Italia. Don Paolo Renner, teologo, e Gabriele Ghirardello, che è l'autore del libro Psicologo dello sport e responsabile del CERT di Merano. Lui non solo è l'autore del libro, non solo è psicologo dello sport, ma è anche allenatore di calcio, quindi questo libro l'ho scritto con una visione particolare, gestendo quindi un doppio ruolo particolarmente significativo, mettendo in sinergia due realtà importanti, quella della psicologia dello sport e quella di essere allenatore, tra l'altro allenatore dopo una carriera come giocatore di calcio. Innanzitutto partiamo da Gabriele e partiamo dal titolo, di un libro che si sviluppa, si snoda in 12 capitoli che andremo ad analizzare senza ovviamente entrare nel merito per non togliervi la soddisfazione di leggere il libro, ma analizzando quelle che sono le tematiche più significative di questi 12 capitoli del libro. Gabriele, innanzitutto il titolo, che è così, titolo forte, pregnante, la puzza dei piedi, perché? Buonasera e grazie a tutti di essere intervenuti. Sì, grazie anche a chi ha voluto accompagnarmi questa sera, così come mi hanno accompagnato nella presentazione di Merano. Posso fare una piccola parentesi? Il dottor Rispoli, Guido, purtroppo è stato trattenuto in quel di Roma, nel senso che il gran capo a livello nazionale delle procure d'Italia ha convocato urgentemente le 20 procure. Essendo lui a capo di una di queste 20 procure, ha dovuto fermarsi a Roma, quindi per questo motivo non è qui. E anticipo questo per dire che nasce il titolo dopo da un colloquio, ma proprio informale, da un dialogo, come si suol dire, per strada, con Guido. Lui è un appassionato di calcio e soprattutto di tennis negli ultimi anni, abbiamo giocato assieme una cinquantina d'anni fa più o meno. E a un certo punto lui mi dice, parlando di psicologia dello sport applicata al calcio, al tennis e ad altri sport, mi dice: ma perché non provi a mettere il ghirardello pensiero per iscritto? Allora io gli dico: guarda Guido, ti ringrazio, ma io sono uno da campo, uno da spogliatoio, uno, ti dirò, che al quale piace sentire la puzza dei piedi dello spogliatoio. Mi fa: ma guarda, io insisto, mi dice, e potrebbe venire fuori qualcosa di interessante, prova un attimo a scrivere qualche paginetta. Gli ho detto: guarda, ti ringrazio, però preferisco soprassedere. Poi qualche giorno dopo, mi ricordo un sabato pomeriggio, dove moglie e figli erano per altre vie, mi sono messo proprio lì, sapete, quei sabati dove non guardi la TV, no, non hai voglia di fare più di tanto, eccetera, come capita a qualcuno di noi, e ho iniziato a scrivere, carta e penna, senza usare il computer. E così nasce questo libro, nel senso che poi l'ho abbandonato il tutto dopo due paginette scritte a mano per qualche settimana. E poi l'ho ripresa in mano e ne sono nate 150 pagine circa, dove descrivo storie reali accadute effettivamente. Alcune di queste sono in anonimato, volontariamente non ho chiesto agli atleti e alle atlete o alle squadre, perché ci sono anche squadre, sia maschili che femminili, di apparire, o comunque non ho chiesto la loro disponibilità, mentre gli ultimi quattro atleti e atlete, quindi sono Christopher, poi c'è la Deborah Vivarelli, Tania Cagnotto e Alex Watzer, a questi ho chiesto se avevano intenzione di dare il loro nome e attraverso i loro fotografi, uno dei quali è Klaus Di Biase, che fa delle foto straordinarie, devo dire, apparire anche come immagine, cosa che è avvenuta. Hanno detto tutti e quattro di sì, e quindi li ringrazio pubblicamente tutti e quattro. Christopher è qui questa sera, Deborah è in Germania, non ha potuto essere presente oggi, Tania è impegnata in altre cose, come sapete, dalle ultime, no? dalle ultime eventi, e Alex comunque in un periodo nel quale è meglio o preferisce non apparire in pubblico, se non per cose mirate diversamente. Questo è un po' il... così nasce il libro e racconto di fatto ciò che avviene. E lo faccio per un pubblico molto vasto, non per gli addetti ai lavori. Quindi il linguaggio utilizzato è, a mio avviso, abbastanza semplice. Si descrive quello che è il lavoro dello psicologo dello sport e del mental trainer con questi atleti, per i quali lo sport è ragione di vita. Forse per il primo atleta che ha 15 anni... no, quello no, perché no, diciamo, non era ancora un classico stipendiato del mondo dello sport, però un ragazzo che in un settore giovanile professionistico, la storia inizia con il calcio, poi si passa al patinaggio, con un mondiale ed un europeo che ho sostenuto, ho accompagnato una ragazza, quindi va dal giovane al campionissimo, 15, 19, 20 anni, 25, 30, eccetera. Quindi c'è un po' di tutto dentro, ci sono vari sport rappresentati. Ci tengo a dire, e concludo, che tutto il ricavato andrà al Südtiroler Sporthilfe. Io non intascherò nulla di quello che il libro porterà nelle casse, quindi l'ho scritto proprio con questo tipo di idea. Anche per questo motivo tutti i fotografi mi hanno dato le foto gratuitamente, che altrimenti bisognerebbe pagare per la questione del copyright, eccetera. E anche per questo motivo Tania e gli altri hanno deciso di proporsi con nome e immagine. Ecco, per questo scopo diciamo, che andrà andrà a dare una mano, insomma, ai ragazzi che economicamente, perché questo è l'obiettivo anche della Sport Hill, che oltre di farli crescere, anche di accompagnarli in un percorso professionistico dove non tutti hanno la possibilità di avere un sostegno economico. E quindi molti atleti sono stati proprio negli anni anche campionissimi, sono stati sostenuti dalla City Roller Sport Hill. Sono stato troppo lungo? Datemi un cenno. No, va bene così, ok. Ma mi sembrava giusto fare una panoramica, giusto per inquadrare la situazione. Grazie, mi permetto di aggiungere solo due parole sulla Sport Hill, che è una realtà esistente nella nostra terra, che effettivamente sta facendo e ha fatto delle grandissime cose per sostenere in tempi non sospetti, cioè in attività giovanile, l'aiuto a quegli atleti che sono potenzialmente in grado di ottenere dei risultati. Lo ha fatto in tempi non sospetti e ha aiutato quando ne avevano effettivamente bisogno da giovani, atleti che poi si sono affermati ai massimi livelli, e ancora lo sta facendo attraverso una serie di operazioni e con una organizzazione unica che è ampiamente condivisa. E a proposito di idee condivise, Don Paolo, qui abbiamo sentito che il libro nasce da idee condivise. Nello sport la forza delle idee condivise porta dei risultati, nella vita pure. Cosa significa forza delle idee condivise? Beh, mi è piaciuto che Gabriele abbia citato il suo impegno di mental trainer, perché a volte si pensa che le prestazioni atletico-sportive dipendano da un fisicaccio, che io ad esempio non posseggo, e quindi potrei essere invidioso, però vediamo che anche nell'età del bodybuilding in cui viviamo oggi e dei centri fitness che hanno dei buoni numeri di frequentanti, il problema è quello del mental training e del soul building. Ci sono molte persone che fanno fatica interiormente ad andare avanti. Questo Gabriele l'ha sperimentato incontrando dei grandi o dei non ancora grandi in crisi, ma non perché non funzionassero i muscoli, ma perché non funzionavano due muscoli poco visibili, che sono a volte la testa, il cervello e il cuore, se vogliamo, quindi il complesso emotivo, razionale, così. E quindi un'idea condivisa forte che ho in comune con Gabriele è quella di un Gesù mental trainer. Gesù che si è rivolto tante volte a persone piccole, emarginate, con una bassa autostima, chiamandole per nome. Quindi aiutandoli a recuperare la loro identità, la loro autostima. E Lazzaro viene fuori, Lazzaro era morto, stecchito, Gesù l'ha rimesso in campo, diciamo, l'ha rimesso in gara, e da questo punto di vista Gesù ha anche contagiato personaggi tipo San Paolo, che praticava uno sport infame, la caccia al cristiano, no? Li faceva arrestare, li faceva deportare, li faceva giustiziare, anche perché non c'erano i carabinieri a difendere nel suo tempo, e quindi i poveri cristiani venivano massacrati. Oggi è Sant'Agata, vergine martire, non vi dico come l'hanno martirizzata, ma ancora oggi a Catania si dicevano le zinne di Sant'Agata da mangiare, un dolce inequivocabile forma di mammella, perché le hanno tagliato i segni. Ebbene, San Paolo, che praticava questo sport ignobile, capisce che invece c'è uno sport più importante, la carità, amare le persone, soprattutto chi è in difficoltà, e cambia disciplina sportiva e diventa un grande mental trainer anche lui. E quindi mi sembra che, sono convintissimo, se no non sarei qui, che il libro di Gabriele, che ho letto con interesse e che ho presentato insieme a lui a Radio Sacra Famiglia quest'estate, sia un grosso aiuto per dirci: cura la tua interiorità se vuoi avere dei risultati a livello esteriore. Se non parti dall'interno non otterrai granché. E quindi questa è una forte idea condivisa. Bisogna curare la persona nella sua dignità, nella sua autostima, nel suo volersi bene, e non tanto nella caccia ai risultati, perché i risultati possono diventare alienanti, frustranti. In questi ultimi tempi sto facendo da mental trainer al mio figlioccio, sono padrino di battesimo, Gabriele, di 7 anni, che era arrabbiatissimo perché è arrivato solo settimo su 12 una gara di sci. Gli ho detto, beh, ma se arriva, hai fatto bene, è una cosa buona. Volevo arrivare primo, perché? Volevo un premio, il premio te lo devi conquistare, così, ma l'importante è che sei arrivato onestamente, che non hai imbrogliato, eccetera. C'è da fare tutto un lavoro, perché oggigiorno tante persone, dai bambini già, cominciano a soffrire per l'ansia da prestazione. E sappiamo che tanti sono tentati di ricorrere a scorciatoie, ausili non legittimi. No, bisogna educargli la mente, diceva Trilussa, no? La ricetta della felicità, no? La ricetta sta nell'avere dignità, un po' di strafottina, non bisogna sempre essere i primi, non si può sempre essere i primi, e quindi dare spazio alla mente, all'anima, al cuore della persona, perché? Perché la persona felice ha dei risultati che rendono felici anche gli altri. E essere rabbiosi non è una dimensione giusta nello sport, quindi credo che troviamo questo punto in comune nel fatto che è dall'interiorità che si deve partire per avere dei risultati. Il primo capitolo del libro è dedicato, è intitolato Le attese, vittoria o sconfitta, ma per chi? E poi il rituale che conferisce sicurezza, valorizzazione di se stessi, cambio di prospettiva e ho sintetizzato poi dicendo anche emozione. Giorgio, vittoria o sconfitta? Poi arriviamo a Gabriele per analizzare il primo capitolo. Vittoria o sconfitta? Ma per chi? In realtà, prima di iniziare questa serata, abbiamo parlato del ritorno alle competizioni di Tania. Tania ritorna alle competizioni con degli obiettivi probabilmente diversi rispetto a quelli che aveva prima, con una visione diversa, con una sfida diversa, quindi alla ricerca di una vittoria che potrebbe essere anche diversa, solo arrivare magari alle prossime Olimpiadi. Questo. Funziona. Pronti? Si sente? Buonasera a tutti. Allora, sono due cose separate. Io, secondo me, questa è una seconda fase che la Tania lo fa quasi più per divertimento, per staccarsi un po' dalla quotidianità, e sicuramente questa sarà una strada che la porterà anche avanti, è probabile, perché ha preso questa decisione a cuor sereno. E quindi qualsiasi cosa che verrà, alla fine dice, io quello che ho dovuto fare l'ho dato, e insomma è un'altra cosa. Invece, tornando indietro a ritroso, quando sei proprio in trincea, dove effettivamente le cose che stai facendo, perché sono importanti, perché veramente hai l'obiettivo dell'Olimpiade, tutto questo qua. Allora, io dico che non c'è vittoria se non c'è la sconfitta, e sconfitte a volte ce ne sono di più, sono più le sconfitte che non le vittorie, come il giocatore d'azzardo che dicono che va a giocare ma va per perdere, perché ecco, è quasi scontata la vittoria, no? Quello incallito. E quindi devo dire che le sconfitte, se prese nel modo giusto, poi ci vuole anche la persona accanto che non ti faccia sentire una sconfitta ma un punto di crescita, perché oggi è andata male, domani forse va ancora male, ma se ti tiri sulle maniche e ti dai da fare, poi magari alla terza, alla quarta le cose vengono. Ecco, questo certamente giorno d'oggi lo psicologo è molto importante. Premetto che ai tempi miei di Klaus, se si parlava di psicologo ti dicevano, ma che sei matto, hai bisogno di cure. Non esisteva quasi la parola psicologo e non esisteva neanche la parola sponsor, perché ci compravamo i costumi da bagno noi. e quindi ecco che sono cambiate. Però strada facendo ci siamo resi conto che era una, è stata una figura molto importante, e fra cui abbiamo anche preso anche un po' di aiuti noi allenatori, che qualche volta, venendo da quei tempi, eravamo un po' più duri, no? E quindi bisogna anche cercare di capire e di trovare la strada giusta per portare l'atleta a fare sport con piacere, soprattutto con piacere. Mi dispiace a volte vedere dei genitori che vogliono a tutti i costi il risultato e diciamo, non dico che li rimproverano quando arrivano a casa, ma questo è del tutto sbagliato. È più facile far metabolizzare la sconfitta e quindi far capire che dalla sconfitta può essere, la sconfitta può essere un punto di partenza o ripartenza, al ragazzino che al genitore. Il genitore è una... Mission impossible. No, in certi genitori è molto difficile, se non impossibile. Per cui il ragazzino poi capisce se lo cresci e cosa... Insomma, gara dopo gara, qualche sconfitta, qualche bella vittoria, fagli capire anche quei piccoli passetti, perché a volte non, i bambini, tante volte i ragazzi, vedono quel gesto di quello che solleva la coppa e che fa, esulta, e non si rendono conto dietro a quel gesto quanto sacrifici e quanto lavoro. C'è, perché solo alzare una coppa al cielo è facile, ma per alzare quella coppa insomma, bisogna darsi da fare molto tempo. Sacchin sa qualcosa, ha fatto una bella, voglio dire, perché Sacchin ha fatto una bella medaglia di bronzo agli Olimpiadi, ai mondiali di Melbourne, e è stata una gara bellissima, credo, per lui. Poi per tre giorni non l'abbiamo più visto, anche perché era a brindare da solo una birra sopra, però quello è stato anche sicuramente un bel risultato, che lui prima di quello ne ha avute più di una di sconfitte, e quindi quella è stata, quando ci sono tante sconfitte, quando azzecchi quella giusta, poi dopo te la porti dietro per tutta la vita. Cristo, per la raccontacela. Sì, diciamo che, cioè, secondo me il momento della vittoria, il momento del bel risultato è paragonabile alla punta di un iceberg, no? Quello che c'è sotto è tutto il lavoro, tutti i sacrifici e anche tutte le sconfitte, no? Secondo me, come sconfitta non bisogna vedere solo la gara andata male, ma magari anche un allenamento andato male, che poi torni a casa, che sei arrabbiato perché non è andata come volevi, e anche quella è da prendere come una sconfitta, secondo me. Ed è tutto da mettere nel calderone tutto quello che ci sta sotto la punta dell'iceberg, perché fa tutto parte della grande preparazione che c'è poi per arrivare a un risultato, poi è andato bene, insomma. Alleggeriamo un po' i temi. Ci sono, Gabriele ne parla anche nel libro, ci sono delle abitudini, dei riti scaramantici che fanno gli atleti, che fanno i tecnici. Tu da atleta avevi un rito scaramantico oppure una cosa che facevi sempre, non è vero ma ci credo? Sì, a volte anche delle piccolezze che possono sembrare delle sciocchezze, no? Però danno quel pizzico in più di sicurezza, soprattutto durante le gare. Magari mettere le ciabatte sempre nello stesso punto, o fare determinati esercizi per riscaldamento prima di tuffarsi durante la gara. E sono dei piccoli rituali che, secondo me, aiutano la testa a rimanere più tranquilla. Poi io su di me almeno ho notato che più ero in forma e meno mi aggrappavo a queste cose qui. Peggio stavo e più avevo bisogno invece di dover trovare un po' degli agganci, qualcos'altro. Esatto. Tu cosa ne avevi da atleta e ne hai da tecnico? Allora, cominciamo da atleta. Da atleta ne ho avuto un po' l'inizio anch'io, ma non era maniacale la cosa. E c'era, mi metto sempre il costume, quello lì, magari poi la solita sveglia a quell'ora, andava bene, ma quello era un rito più tecnico che non scaramantico. E un giorno mi ricordo che vado in piscina, mi raccomando, ho fatto la borsa, quel costume lì, vado in piscina, faccio per mettermi il costume, l'avevo dimenticato in stanza, quindi sono rimasto un po' male, poi mi sono cancellato dalla testa, ho messo un'altra mutanda e praticamente la gara mi è andata anche bene, quindi da allora ho detto ma sono tutte balle e allora ho rinunciato. Come allenatore anche lì qualche cosa, devo dire che più che altro però la routine quotidiana, ho visto anche la Tania come Christopher, un giorno stava per salire sul trampolino, siccome il rito era mettere le ciabatte perfettamente unite in linea con una mattonella, che roba. Poi è arrivata una, la russa, è passata di lì, gli ha dato un calcio e gliel'ha scombinata e quindi ha dovuto fare il tuffo, è venuto bene lo stesso, quindi da allora ha lasciato perdere tutte queste cose. Però l'importante è che non diventino maniacali, perché sennò poi non è più un valore aggiunto, ma se tu esageri e sei legato a tutte queste cose qua, la tua concentrazione va su quello e non fai più quello che devi fare sul trampolino, certo, o sull'attrezzo, insomma. Don Paolo, brevemente, qualche sera fa, guardando una partita di Coppa Italia, in occasione del rigore, di un rigore decisivo, un allenatore si è a più riprese fatto il segno della croce, mani giunte, si è messo praticamente a pregare in campo, ad un certo punto si ha fatto anche il gesto di genuflettersi e quant'altro. Qual è il suo parere? Meglio di fronte alle telecamere o meglio nell'io? Nel dietro le quinte, nello spogliatoio, nell'ufficio dell'allenatore? Una volta un parroco è andato col sagrestano a benedire i campi, no? E arrivati davanti a un prato particolarmente arido, secco, brullo, il sagrestano dice: parroco, dia una doppia benedizione perché questo è il mio campo. E il parroco lo guarda e dice: guarda che qui ci vogliono due carri di letame, la benedizione non serve. Cioè, realisticamente parlando, o sei allenato o non lo sei. Il rito, come dicevano loro che sono più esperti del settore, ti può dare quell'aiutino in più, quel goccino in più di sanità, però non cambia il risultato da bianco a nero, viceversa, no? Noi che siamo esperti di rituali sappiamo benissimo che anche un tempo si era molto maniacali, diceva Giorgio, no? Guai se nella messa qualcosa non va in ordine preciso. Stamattina ad Andriano, la messa feriale, il libro un po' vecchio, due pagine sono rimaste attaccate, io ho continuato la preghiera, ma dopo mi accorgo che ho saltato due pagine, che ho detto alla gente: vedete che succede? Se si attaccano le pagine ho dimenticato il Papa e il Vescovo, ma tanto preghiamo lo stesso per loro, no? E sono andato avanti, non è che ho ripreso tutto indietro, perché direbbe Freud, psicopatologia della vita quotidiana. Finché è una cosetta simpatica va bene, diceva, parlavamo prima, Benedetto Croce, grande filosofo idealista, eccetera, portava un cornetto rosso alla cintola, no? E un giorno beccarono che si toccava il cornetto e gli chiesero: professore, voi che siete così illuminato, toccate il cornetto? Ah, disse, io non ci credo, però a toccare il corno che ci vuole? Non mi fa nessuna fatica, non mi costa nulla, facciamo anche questo. Quindi sono dei gesti appunto apotropaici che vogliono scacciare la sfortuna, che lasciano il tempo che trovano, ovviamente. Gabriele, veniamo al primo capitolo, cercando di focalizzare qualche cosa. Tu parli di valorizzazione di se stessi e poi di cambio di prospettiva. Quando? Come? Sì, allora, valorizzazione di se stessi e cambio di prospettiva. Allora, io direi che per inquadrare un po' quello che hanno detto Giorgio, Christopher e Don Paolo, e per inserirsi nella tua domanda, io credo che un atleta sia in grado di valorizzare se stesso nel momento in cui prende coscienza di sé. Nel momento in cui c'è questo salto di qualità dentro di sé, dentro se stesso, e poi spariscono tanti mali. spariscono anche tante scaramanzie, sparisce un po' di superstizione. Christopher dice: nel momento in cui ero più in forma, no? Le scaramanzie contavano molto meno. Ecco, in quel momento Christopher ha preso coscienza di se stesso, in un momento particolare della sua carriera, dove è particolarmente in forma. Con lui, per arrivare nell'ambito un po' più pratico, abbiamo fatto un europeo ed un mondiale assieme. Il suo capitolo si intitola Oltre la soglia del dolore, perché è interessantissimo secondo me come Christopher riesce con un esercizio mentale a un certo punto a per qualche istante, si parla di uno strappo di 10 cm, 12 cm, 13 con dei muscoli esplosivi, cosce insomma molto, molto forti, molto grosse, quindi medici e fisioterapisti che lavoravano eccetera, lui ha preso coscienza di questo tipo di infortunio, abbiamo quindi ha preso coscienza di se stesso e abbiamo lavorato proprio su questo tipo di infortunio, mentre nell'europeo, in occasione dell'europeo, avevamo fatto tutto un lavoro sulla concentrazione, sull'attenzione. Lui era entrato in un tunnel praticamente prima del salto, perché il tema in quella fase era la concentrazione, migliorare l'approccio al salto. Avevamo lasciato inalterati i suoi rituali, quindi quello che lui utilizzava come rituale era inalterato. Avevamo cambiato, inclusa anche la musica. Christopher è un eccellente suonatore o di batteria, alle percussioni, insomma. Quindi anche la musica che a lui interessava era rimasta quella, perché gli dava sicurezza, gli dava una certezza nell'affrontare l'ignoto, perché non sai come ti andrà il tuffo, così come non sai come ti andrà la partita di calcio o la partita di basket, no? Quindi aveva questi rituali. Nel momento in cui abbiamo affrontato poi il mondiale con un infortunio, poi si è infortunato nella stessa squadra, abbiamo giocato a pallavolo dopo i due signori qui presenti, mentre Giorgio con la sua fibra è riuscito a mantenersi intatto, Christopher si è procurato questo enorme strappo e siamo andati proprio oltre la soglia del dolore con questo esercizio mentale. Ma prima di fare questo siamo riusciti a prendere coscienza di quello che era successo e di quello che stava accadendo. E anche nella descrizione che Christopher mi consente di fare del lavoro che abbiamo svolto con lui, si vede proprio il percorso che abbiamo fatto, no? Noi abbiamo parlato del suo dolore, perché era l'ultimo mondiale di Christopher, no? E quindi praticamente ti hanno fatto scegliere se partecipare oppure no, nel senso che arrivavi da una gran bella carriera, questo era sicuramente l'ultimo mondiale, ti hanno dato la possibilità di partecipare lavorando, ripeto, medici e fisioterapisti come dei pazzi, è il caso di dire, per rimetterlo in qualche modo in piedi. Io poi ho fatto il mio, che è una piccola parte rispetto al lavoro fisico che lui ha fatto, però anche questa piccola parte, quando tutto deve essere in equilibrio, crea la differenza. E quindi lui espelle questo dolore e cresce da un punto di vista personale e mi dà questo riscontro, che per me è il grosso successo. Quello non è tanto le medaglie eccetera, perché quello è tutto merito suo, no? È la crescita personale che lo porta oggi ad essere un allenatore con delle conoscenze approfondite e lo porta anche a fare un'altra attività sportiva per la quale a livello nazionale è anche messo abbastanza bene, perché uno è uno di quelli che non ha mollato dopo, che si tiene in forma con il bodybuilding, sollevamento pesi. Quindi immaginate questa massa muscolare che già aveva prima, che adesso comunque ha ancora incrementato, che si strappa e che andiamo oltre questa soglia del dolore, prendendo coscienza di se stessi. Christopher, come sei riuscito ad allenare la mente per sostenere il tuo corpo in quel momento? Devo dire che abbiamo fatto un gran bel lavoro insieme a Gabriele. Io mi ricordo grazie. Che... grazie. sì, mi confermo. Ecco, mi ricordo che io avevo un male cane alla gamba, perché c'avevo questo strappo che insomma non riuscivo a rimarginarsi in tempo. Io mi ero infortunato a metà maggio e metà luglio mi pare che c'erano i mondiali, quindi sì, sì, avevo questi pochi mesi a disposizione per guarire e allenarmi, e ho dovuto fare le due cose insieme, quindi cercavo di allenarmi mentre stavo ancora guarendo, quindi diciamo che mentre spingevo, mentre saltavo, io provo del dolore fondamentalmente. E quindi grazie a un lavoro che abbiamo fatto insieme a Gabriele, io per qualche istante riuscivo a isolarmi dal dolore, e mi ricordo che è come se mi immaginavo un fulmine che partiva dalla mia gamba e andava ad appiccicarsi sulla lancetta dell'orologio che c'era in piscina. E lì in quel momento io per qualche istante, mentre spingevo e mentre facevo il tuffo, riuscivo a isolarmi e non provare dolore. Adesso non so esattamente quale sia il meccanismo che scattava dentro la mia testa, però fondamentalmente funzionava in questo modo. E vi posso garantire che non abbiamo preso nessun tipo di droga, né lui né io, eravamo praticamente astinenti da tutti i tipi di sostanze, no? Però insomma, in qualche modo, no, poi ce l'abbiamo fatta. E torniamo a uno dei capitoli del libro. Tu praticamente sei riuscito in ogni caso a coronare il tuo sogno, che era quello di disputare quella manifestazione, isolandoti, seppur temporaneamente, da un male cane. Sì, esatto. E, beh, sì, poi fondamentalmente, allora, io arrivavo dai mondiali precedenti con una medaglia, in più avevo vinto anche una medaglia l'anno dopo agli europei, quindi diciamo che avevo gareggiato con un'ambizione di avere un risultato, mentre per l'ultimo mondiale, quello di Roma, che ero infortunato, l'obiettivo era gareggiare e arrivare a fine gara, e così poi è stato alla fine. E io ho un bel ricordo comunque di quel mondiale proprio per questo motivo qui. Ho lottato invece che per un risultato, ho lottato contro me stesso per andare a gareggiare fondamentalmente. Nel libro si parla di sogni, di speranze e anche del dopo. Quindi emerge forte e chiaro quello che è il concetto di cadere e rialzarsi. Giorgio, tu ne sai qualcosa soprattutto nella gestione di Tania, tra un'Olimpiade e l'altra. Che cosa è accaduto tra Londra e Rio? La gestione del allora, successo per arrivare a Rio. Chiaramente Londra per noi è stata una pugnalata al cuore, perché due medaglie di legno, sfiorate proprio per poco, perché comunque eravamo andati a Londra con tutta la coscienza a posto, la determinazione, tant'è vero che l'ha dimostrato il risultato, perché per due volte quarti per pochissimo, diciamo, e quindi siamo tornati veramente con la coda in mezzo alle gambe, e quindi abbiamo parlato poco, non abbiamo detto, non abbiamo analizzato subito cosa facciamo, cosa non facciamo. C'era anche nel preventivo di smettere, lasciar perdere, oh, è andata così, e pazienza. Però poi l'anno dopo ci sono stati i mondiali, vabbè, andiamo ai mondiali, erano a Barcellona, e lì sono tornate le medaglie. Quindi si è metabolizzato, si è digerito il risultato, Londra abbiamo fatto finta di niente, anche se rimaneva sempre un mattone da digerire, però io ho sempre anche detto una cosa, quando sei lì in trincea e dici, sembra che veramente tutto il mondo sia focalizzato, mirato a quello, che è una cosa per te importantissima, te come allenatore e anche come atleta. Però alla fine bisogna anche dire, io l'ho sempre detto, attenzione, andiamo ai giochi olimpici, lo dice già la parola, sono giochi, anche se è vero che sono importanti, ci sono delle cose nella vita che sono ma molto molto più tristi e più importanti, quindi non facciamo troppe cose, così è andata male una gara, pazienza, ma le vere disgrazie nella vita sono altre, e quindi questo, per quello credo che alla fine abbiamo un po' sdrammatizzato tutto lì. Papà psicologo. Vicino è uno spasso, eh? Lo sport insegna a cadere e rialzarsi, a porsi degli obiettivi nuovi, a cercare la luce anche lo spiraglio in fondo al tunnel. gli atleti spesso hanno questa grandissima forza di volontà nella ricerca della luce in fondo al tunnel. Sì, uno dei temi è il sogno, la speranza e il dopo, e su questo dopo bisogna lavorarci, nel senso che per Christopher e per Tani, ad esempio, facendo parte di un gruppo, diciamo, di atleti che hanno già di per sé un'attività una volta finita la parte sportiva, insomma, chiuso questo capitolo, se ne apre poi un altro. Infatti prima nella premessa tu ricordavi che fa parte del corpo carabinieri, e è una grossa opportunità, però ci sono altri atleti che puntano tutto sullo sport e hanno solo quello. E hanno titolo di studio, hanno lasciato perdere perché dovevano accedere ad altri tipi di interessi, e lo hanno fatto con cognizione di causa, le famiglie le hanno sostenute, questi ragazzi e queste ragazze. Quindi far uscire, diciamo, da una realtà dove tutti ti osannano, la maggior parte delle persone ti osannano, per poi entrare in un ignoto, in uno che non so cosa farò domani, cosa farò da grande, diventa dura perché subentrano tutta una serie di idee, di meccanismi proprio mentali. Il pensiero è ridondante, nel senso che ciò significa che si ripete lo stesso tipo di pensiero un'infinità di volte. Cosa farò? Ce la farò? Ci sono anche condizioni familiari, a volte persone che si muovono in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, con figli e mogli, quindi non mi rinnovano il contratto. Ho avuto tante esperienze nei 15 anni circa che adesso faccio questo tipo di attività, che non è la mia attività principale. Principalmente come psicologo, psicoterapeuta e dirigente di servizio, dirigo il servizio per le dipendenze dell'azienda del comprensorio sanitario di Merano, quindi quella è la mia attività principale. Questa è un'attività, diciamo, secondaria, che a volte lascio anche per alcuni periodi anche abbastanza lunghi o medio lunghi, proprio perché l'attività lavorativa mi assorbe molto di più. Tornando all'oggetto della questione, l'accompagnamento fuori vuol dire che il rischio è che si inanellino tutta una serie di sintomatologie. Inizi a preoccuparti, dormi poco la sera, la notte, ti addormenti tardi e ti svegli presto, no? È l'ansia che inizia a fare il suo lavoro, no? Non sai che cosa ti riserva il futuro, quindi inizi a lambicare per un contrattino di terzo ordine, ma non sei sicuro, quindi preferisci chiudere un contratto anche con uno sponsor per 3 anni a prezzo inferiore piuttosto che un anno a prezzo medio. Non sai se il manager della squadra o della società ti coinvolge ancora per gli anni successivi, eccetera. Queste cose creano una serie di difficoltà. Ci sono dei dati anche statistici, no? Su alcuni sintomi, stress, ansia e depressione. Un capitolo è anche dedicato a questo. E scopriamo che ci sono 4.500.000 depressi, dato del 2016, in Italia. Tra questi ci sono anche ovviamente gli sportivi compresi. C'è uno studio, un'indagine di FIFPRO, che è il sindacato praticamente mondiale dei giocatori di calcio, che ci dice che il 38%, hanno intervistato in 11 paesi diversi 826 atleti professionisti, calciatori. Questo vi fa, cioè, non ha partecipato l'Italia, non ha partecipato la Germania e nemmeno l'Austria, quindi la nostra terra, diciamo, l'Italia in questo senso non c'era, così come le due nazioni a noi limitrofe, però c'erano delle potenze del calcio, quindi Spagna, Francia, il Belgio per la parte più europea, poi c'era il Paraguay, il Giappone, quindi nazioni di questo tipo, il Cile, no? E hanno scoperto che in questa indagine che dei 600 e poco più atleti in attività, sugli 826 intervistati, quindi poco più di 200 erano ormai, avevano finito la loro carriera, il 38% di quelli in attività soffrono o di una forma d'ansia oppure di una depressione. Il 9% di questi, sempre di questi in attività, ha un eccessivo consumo di alcol, che passa al 25% quando siamo a fine carriera. Quindi ci sono tutta una serie di, come dire, di componenti che mettono in preallarme l'atleta a livello mentale. Il tutto poi sfocia in un contesto familiare, generalmente avviene questo, insomma, nelle varie, le storie sono tutte molto simili, eh? Cioè c'è un filo conduttore comune, che è il contratto, la sopravvivenza, cosa farò da grande, eccetera. Poi le individualità all'interno di queste storie sono diverse. E lo dico anche nel libro, sentire una storia, è come sentire la storia, permettetemi questa digressione proprio, è come sentire la storia di un alcolista o di un tossicodipendente. Più o meno, vi posso garantire dopo 28 anni di direzione di un servizio, che le storie più o meno sono sempre quelle. C'è un filo conduttore comune, è l'individuo che crea la differenza poi all'interno della storia ed è su quello che devi agire. E quindi accompagni in un modo diverso a fine carriera, per tornare all'oggetto della questione, accompagni in modo diverso a fine carriera la persona. Gente che decide di andare a fare nell'ambito della ristorazione lavapiatti perché altro non si trova. Oppure persone che sono un po' più fortunate, che hanno iniziato a ragionare 20 anni prima o 25 anni prima o anche 10 anni prima solo per le carriere un po' più corte e hanno un diploma e quindi si propongono, no, a livello di mercato del lavoro. Quindi sono questi i temi. Quello che ho anche detto in un'intervista molto recente è che noi siamo abituati a vedere questi atleti sempre belli, in forma, consentitemi il francesismo, strafighi, no? Alla televisione, tiratissimi con questi capelli laccati, eccetera, oppure in piena forma, ma tutto sommato quando vai a lavorare con loro sono delle persone normalissime che si trascinano e portano con sé i propri valori di vita e le storie di tanti altri ragazzi e ragazze della loro età. Quindi non sono molto diversi e quindi un salto nel futuro è sempre opportuno farlo con loro, anche perché Christopher ha recuperato da quell'infortunio, ha scelto di fare un certo tipo di percorso, ma c'è gente che con un infortunio molto più grave smette la carriera. E allora che succede? Allora ecco che il tema depressione, ansia, stress, eccetera, iniziano a prendere piede. Quindi io dico, ma lo dico più per me che per tutti noi, insomma, lo dico più, guai a tralasciare l'idea del dopo, specialmente se sono degli atleti che hanno già fatto un percorso di vita. Mi aggancio e ti rilancio quello che tu stai dicendo, perché effettivamente noi siamo abituati a vedere i campioni dello sport, ma anche i professionisti che gravitano nelle realtà vicino alla nostra, come persone fortunate, chissà quanto pigliano. In realtà il chissà quanto pigliano riguarda una certa sfera. Un'altra sfera in discipline sportive molto vicina alla nostra realtà è quella di ragazzi che ricevono dei compensi, che hanno dei contratti che spesso sono su base annuale, quindi con una grossissima incertezza sul futuro prossimo, che come tutte le persone, e questo è un altro concetto che emerge nel libro, hanno bisogno di trovare dei punti fermi, perché nella nostra vita devi avere dei punti fermi. Quindi cosa fanno? Molti atleti si sposano molto giovani, fanno dei figli perché hanno i punti fermi, li cercano nella famiglia perché non ce li hanno nell'attività professionale, dove ricevono dei compensi, che stiamo parlando al minimo di stipendio in un campionato di calcio di Serie C, che poi è la media, e devi anche trovare la società che fortunatamente nella nostra realtà non te li dà, in altre realtà te li promette, e quindi creandoti anche delle difficoltà legate proprio a quella che è la sopravvivenza quotidiana, perché tu ti stai operando in una realtà che non è la tua, lontano da casa, con famiglia o altro, e spesso non hai quella sostenibilità economica, che è un altro elemento importante per liberarti la mente e consentirti anche di andare in campo con un certo tipo di serenità. Quindi, Gabriele, i punti fermi sono essenziali per chiunque. Sì, e in questo a volte lo psicologo dello sport o il mental trainer, una volta negli anni che furono, poteva essere il massaggiatore o il medico della società o anche il magazziniere, Io le chiamo queste e apprezzo moltissimo e amo moltissimo confrontarmi anche con persone che escono dal mio ambito. Io ho lavorato per quasi 7 anni nella prima squadra dell'Alto Adige e poi ho dovuto lasciare per motivi di lavoro più impegnativi e posso dire che uno dei miei partner era il magazziniere, nel senso che ci sono delle, io le chiamo diagnosi grezze queste, nel senso che non sono persone che hanno un percorso di studi classico, però sono fondamentali, sono importantissime. Sì. Alla distribuzione del materiale gli dici una cosa in un modo all'atleta, gliela dici in un'altra, gli cambia la giornata, no? E questa, quindi la valorizzazione anche di queste figure professionali che non hanno fatto questo tipo di percorso, oppure il massaggiatore di una volta, che erano massaggiatori forse meno scientifici di adesso, no? Però ti davano il senso della vita in certe cose, no Giorgio? Ti ascoltavano. E ti ascoltavano, no? E quindi adesso ha preso piede questa figura professionale da alcuni anni in Italia, all'estero ancora prima, e fai a volte un lavoro d'ascolto. E per quanto riguarda la parte psicologica, li accompagni nel percorso di vita. Mi è capitato anche di fare incontri per quanto riguarda l'Alto Adige Calcio con mogli o compagne di calciatori che finivano con l'Alto Adige e l'anno dopo andavano da un'altra parte. Cioè, e non erano mogli che vivevano lì necessariamente, ma venivano a trovare i ragazzi ogni tanto, ogni 2 settimane, 3 settimane, una volta al mese. Questo a significare proprio il coinvolgimento, no? nella vita della persona. E quindi inizi a fare il compagno di viaggio e non si parla solo di sport, si parla di tantissime altre cose. Si parla di famiglia, si parla di passato, si parla di futuro, si parla di esperienze più o meno positive, no? Nella vita, eccetera. Al tutto il trucco, tra virgolette, oltre a ingannare la mente, perché quello che abbiamo fatto con Christopher è stato semplicemente ingannare la sua mente per permettergli di fare quei salti, quelle sequenze di salti. In altre situazioni devi cercare non tanto di ingannare la mente, ma di consapevolizzare che c'è un presente, c'è un futuro e c'è un passato che comunque porti con te. Noi tutti, prima di essere stati adulti qui dentro, abbiamo avuto dei genitori, o dei genitori naturali o dei genitori adottivi per i più sfortunati, ammesso che qualcuno ci sia che ha avuto un genitore adottivo. Provate solo a pensare voi quanto portate dell'insegnamento dei vostri genitori, di vostra madre, di vostro padre o di uno zio, figura di riferimento. E io vi posso dire che in tantissimi sport mi sono successe delle cose stranissime. Ad esempio uno sport individuale, mi suona la porta, suona dal campanello di casa, apro la porta e mi vedo 2 persone davanti che in quel momento nemmeno riconosco lì per lì. Ho detto buongiorno, mi dicono salve, siamo i genitori di una ragazza che avevo seguito. E è tanto tempo che vogliamo passare da lei, ci scusi, mi consigliano una bottiglia di vino ed una lettera, una busta dove poi io apro e vedo che c'è dentro una lettera molto breve, una ragazza che mi dice ti ringrazio tanto per avermi aiutato nel periodo del mio infortunio, adesso sono entrata nel giro della nazionale, sono molto felice, però ho abbandonato perché ho preferito studiare. Ecco il dopo, no? Questa ragazza fa questo tipo di scelta. E però volevo ringraziarti perché mi sei stato molto vicino, ecco, questo è il risultato del lavoro. Non è tanto il fatto che per le sue qualità lei sia arrivata poi in nazionale, ma quanto per il fatto che è cresciuta, Il tema poi diventa lavorare per processo o lavorare per risultato. Con la maggior parte degli atleti si lavora per processo, con i fuori classe lavori per risultato. La medaglia di legno, le due medaglie di legno e il boccone amaro che Giorgio diceva prima, è perché con una fuori classe come Tania lavori per risultato, nel senso che un quinto posto, un sesto posto, perdonami la franchezza, non gliene può fregare di meno, no? E devi arrivare in zona medaglia, perché questo è il risultato, no? Questo è il risultato quello che conta. Quindi un conto è lavorare per processo, e ripeto, di fuori classe o di campionissimi, devi proprio arrivare a lavorare per quel tipo di obiettivo. Quello che vorrei aggiungere, Giorgio, se mi consenti e se non sono troppo lungo, è che Tania si è rivolta a me non perché aveva un problema. Con Tania, in questo senso di problema, zero. Si è rivolta per migliorare se stessa. Ecco perché, no, è importante il tema personale, della consapevolezza, della crescita personale. Perché Tania mi dice: io voglio migliorare in quel tuffo, che è il 107B, il triplo e mezzo avanti. E su quel tuffo, no, doveva aumentare il coefficiente di difficoltà per avvicinarsi alle cinesi, per arrivare al mondiale preparata, eccetera, cosa che poi ha fatto, insomma, no? Ed è stato un grandissimo insegnamento vedere i video con Giorgio delle prestazioni di Tania a bordo vasca, no? È stato un grandissimo insegnamento, perché ti rendi proprio conto dell'essenza di quello che lui vuole dall'atleta in quel momento lì, e impari tantissimo. Per converso invece sai che devi ottenere quel risultato, e quindi è un lavoro che fai su quel risultato. Quindi questa è un po' l'idea, no? E nel libro trovate cose molto pratiche, molto pratiche. Ci sono forse due o tre riferimenti, però sono spiegati tra parentesi la parola, e in mezza frase è spiegato cosa significa. Ma 4-5 volte, non di più. Don Paolo, faccio prima la battuta, poi cosa seria. La battuta è che ho l'impressione che lo psicologo nello sport moderno abbia sostituito quello che un tempo era il cosiddetto padre spirituale, però gli accomuna un elemento importante che non è solo prerogativa dello sport ma della vita quotidiana: il bisogno di ciascuno di noi in qualsiasi contesto non di parlare ma di essere ascoltato. Verissimo, quindi è uscito anche il suo ruolo di confessore, no? Non può dare la soluzione, ma può dare la soluzione a volte di certi problemi, di certi grovigli che si creano nell'animo delle persone, così. E credo che ci sia questo lavoro di padre spirituale, di accompagnatore. Una volta si diceva direttore spirituale, poi è diventato padre spirituale, oggi diciamo accompagnatore spirituale, che è più corretto, perché non puoi sopravanzare la persona così. Accompagnare, che è fatto in gran lunga di ascolto, appunto di ascolto empatico, e di ascolto che poi aiuta la persona a seguire, tra virgolette, la retta via, che è quella dell'amor proprio. Volersi bene vuol dire non amare le medaglie, ma amare prima di tutto se stessi. Ci sono persone che per arrivare al risultato si distruggono. Anni fa a Roma, durante gli studi teologici, si disputava, c'erano un po' due partiti: quelli che dicevano si studia per la vita e quelli che dicevano si studia per gli esami. E tagliò il nodo gordiano il nostro collega che disse: io studio per la vita, ma intanto cerco di passare anche bene gli esami, no? La soluzione, se vogliamo, salomonica. Gesù stesso ci ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso, quindi l'atleta tende a compiacere il suo pubblico, tende a dare dei risultati che facciano contenti gli spettatori, i suoi tifosi, ma deve prima di tutto guardare a se stesso, deve stare bene in se stesso, deve divertirsi, diceva prima, avere la gioia, diceva Giorgio, di fare queste cose. E credo che qui si possa riassumere, se mi consenti, certo, lo sforzo di Gabriele, di chi lavora come lui, nel farci passare il cambio di prospettiva dalla logica quantitativa, che è dominante nella nostra epoca: il PIL, la crescita, i metri, i centesimi, eccetera, alla logica qualitativa. Le cose vanno fatte bene e bisogna far bene la propria vita. nessuno deve impormi cosa devo fare, devo io pormi dei risultati, ma che mi aiutino a essere me stesso, a sviluppare la mia personalità. Quindi questo percorso di crescita, guardando più al diventare sempre più se stessi che non al diventare quello che la gente vuole che io sia o ottenere quei risultati che tutti si aspettano da me, è importante essere liberi da questi condizionamenti. Quindi l'accompagnatore spirituale che è Gabriele ha questa funzione importante di aiutare sempre di nuovo a passare, citando Erich Fromm, dalla prospettiva dell'avere, del fare, alla prospettiva dell'essere. Essere è la cosa più essenziale, perché io posso essere un grande sportivo o meno, ma devo essere me stesso prima di tutto, essere persona al di là dei ruoli in cui mi trovo, dei risultati, delle prestazioni. Quindi è un grosso lavoro di accompagnamento quello di Gabriele, e direi anche un po' di più un ruolo da levatrice, da balia, che aiuta a far venire fuori la persona che c'è nell'atleta, che non deve farsi fagocitare dalla sua immagine ma restare se stesso. Un altro elemento che emerge forte e chiaro, e che è una caratteristica dello sport, è la leadership, essere leader anche degli sport individuali. Si è leader, si è spesso leader di se stessi. Quando ci si sente leader di se stessi, Christopher? Ma io sono stato leader di me stesso nei momenti di forma smagliante, che calcolate che magari saranno stati 2 o 3 all'anno massimo, che duravano 3-4 giorni a volta. E lì, in quei momenti, ero pienamente cosciente di me stesso e di quello che potenzialmente poi potevo fare. E lucidità mentale proprio estrema e forma fisica smagliante, e lì ero leader di me stesso, cioè sapevo quello che sapevo già come avrei fatto il tuffo già qualche istante prima. Io prima di partire mi preparavo, mi concentravo e sapevo già che l'avrei fatto bene, e quella proprio era una sensazione fantastica da avere. Mi sentivo proprio leader di me stesso. Coinvolgo anche Giorgio. La leadership del tecnico, tu hai dovuto scindere la leadership del genitore assumendo la leadership del tecnico in un contesto di gestione di squadra, quindi c'è tutto un ragionamento da fare attorno anche a questo concetto. Allora diciamo che io ero il tecnico, avevo la responsabilità della squadra, però siamo sempre riusciti a fare squadra anche con gli altri allenatori, anche con vedute diverse, quello che era. Il nostro è uno sport prettamente individuale, per cui diciamo anche noi come allenatori guardiamo i nostri atleti, l'altro allenatore guarda gli altri atleti, poi comunque c'è un ritrovo alla sera tutti insieme dove si scelgono così e si discutono alcune strategie dell'approccio alla gara. Questo però fondamentalmente, no, quando noi arriviamo a una gara internazionale diciamo che il grosso lavoro è stato fatto a casa, e quindi diciamo le cose poi alla fine devo dire sono sempre andate bene serenamente. Diciamo io per come sono fatto io non mi è mai andato di metterlo troppo in risalto, io sono il capo, una cosa o un'altra, ma diciamo mi è anche sempre piaciuto ascoltare, no? E sentire le varie opinioni, e poi magari se c'è qualcuno che deve decidere prende la responsabilità e decide. Quindi diciamo il nostro... No, volevo rifarmi un po' al discorso di prima, che il mondo del calcio effettivamente da una parte c'è un aspetto economico che noi non conosciamo, è un altro livello, però ci sono molti atleti che si vede che con il calcio si sono fatti dei sogni incredibili, proprio perché c'è questo specchietto per le allodole che talvolta... può essere ingannevole. E noi invece partiamo già da un vogliamo molto basso, perché da noi soldi non ce ne gira, non ne girano molti, e devo dire che da un lato siamo anche fortunati, perché poi quasi tutti gli atleti hanno una loro vita normale, comune, e quindi sanno poi affrontare anche la vita forse in un modo diverso. Invece quando vivi un po' in un mondo dei paesi dei balocchi, qualche volta non è facile, questo è un po' l'unica cosa, la differenza. Da una parte sembra un po' il discorso come la volpe e l'uva, no? Da dire, ma il calcio, no, stiamo meglio noi. Invece no, loro guadagnano dei bei soldini, però dall'altra parte noi siamo anche fortunati per quell'aspetto. Certo. Ricordando sempre che i dati nel calcio, in Serie A B arriva 1 su 1,5 milioni, al professionismo è ancora più esteso il numero. Gabriele, la leadership si divide in due, che poi è un concetto che si può mutuare anche nella quotidianità, nella realtà lavorativa o altro. Cioè il leader positivo e il leader negativo, non c'è la via di mezzo. No, se è leader ha delle caratteristiche come tali, lo individua non tanto l'allenatore o la società che dice tu sei il leader, vai e fai il leader. Se a livello di squadra o a livello comunque di nazionale, anche di sport individuale, a livello di un gruppo più allargato, sono le qualità tecniche, tattiche, comportamentali, che fanno in modo che le persone, le altre persone intorno a questo soggetto lo riconoscano come leader, sia in positivo che in negativo. Quindi la stessa cosa descritta in positivo vale per la parte negativa. Un leader che si negativizza anche, questo può essere, può accadere, che si rivolti contro, insomma, ammettiamo Cristiano Ronaldo, visto che c'è un grande sostenitore della Juventus, che della Juve ha fatto la sua fede, mi dispiace per te, ma credo che preghi più Cristiano Ronaldo che i santi, il Signore in prima linea, che oggi compie 34 anni, tanti auguri. Ecco, se una persona di questa portata si rivoltasse contro Allegri, diventerebbe molto dura, no? Quindi è molto importante in un gruppo squadra, tornando a qualsiasi tipo di gruppo, la gestione. Fabio Capello e Marcello Lippi dicevano tutti e due una cosa molto vera, alla quale credo anch'io fortemente, ed è che di fatto quando alleni una nazionale, e non si parla di nazionale del tipo Giorgio, perché lui fa l'allenatore o faceva l'allenatore vero e proprio, il selezionatore vero e proprio, ma quando te li ritrovi lì già pronti, o ci sono fisicamente o non ci sono, perché non è in 3-4 giorni di ritiro che fai la differenza, metti a posto delle cose, li amalgami un po', però finisce lì. Poi il resto è tutta gestione dell'essere umano, quindi il grosso del lavoro di un selezionatore di una nazionale è la gestione delle risorse umane, come in un'azienda, no? E questo è il fatto. Quindi ecco perché le figure professionali come la mia entrano anche a livello di staff, a cavallo fra lo staff medico e lo staff tecnico, proprio per consentire ad entrambi gli ambiti una miglior gestione dell'atleta, e cose che avvengono sia nel caso di leader positivi che nel caso di leader che si negativizzano, oppure che sono negativi già di per sé, perché trovi nello spogliatoio quello che, come si suol dire con un termine del linguaggio comune in lingua italiana, il bastian contrario, no? Quindi lo trovi e devi imparare a gestirlo, anche perché spesso questi soggetti hanno delle grandi capacità tecniche e tattiche, di conseguenza ti rischiano di fare la differenza, e se non ce li hai dalla tua parte diventa un problema. E quindi negli anni di vari sport che ho seguito mi sono anche capitati dei leader, diciamo, non proprio positivi, che abbiamo dovuto in qualche modo reintegrare o cercare di fare nel nostro modo migliore per integrarli. Domanda a Gabriele, ma con Don Paolo in allerta: esiste un luogo sacro nello sport, cioè una sacralità particolare che è lo spogliatoio. In quel contesto succedono delle cose che restano nello spogliatoio e devono restare nello spogliatoio. Sì, e un capitolo del libro riguarda proprio una cosa che è successa veramente, alla quale ero presente, dove un ragazzo caccia fuori dallo spogliatoio il team manager e chiude lo spogliatoio. Periodo squadra assolutamente in difficoltà, 2 vittorie e 2 sconfitte. Alla sera mi chiama, mi dice: devo parlarti. Ci incontriamo a casa sua e mi dice: guarda, oggi è successo questo spogliatoio, per mezz'ora non è entrato nessuno, per fortuna lo staff tecnico non ha detto ragazzi andiamo, oppure nessuno si è avvicinato. Il team manager ha preso i suoi stracci, se ne è uscito perché ha capito che c'era un'aria bruttina che tirava lì. E di conseguenza alla sera mi dice: tu cosa ne pensi? Ti dico quello che è successo, ma non chiedermi quello che è successo nello spogliatoio, perché questo è sacro. E lì non ci scappa. Cioè, io ho fatto il calciatore, non sono arrivato a dei livelli, diciamo, nazionali, così ho fatto un percorso, diciamo, discreto, però lo spogliatoio è veramente sacro, nel senso che da lì non esce nulla, se i giocatori decidono che non esce nulla. E quindi ho dovuto, come dire, affiancarlo in questo racconto, dove lui mi chiede delle conferme: guarda, ho deciso in questo modo perché non si può fare, non si può preparare una partita così, stiamo facendo male da un mese, perdiamo, dobbiamo andare tra i primi, invece siamo lì a metà bassa, insomma, cose di questo tipo, no? Quindi l'ho accompagnato in questa riflessione e ho rinforzato la sua azione. Io non so se ha guardato qualche salto dall'alto o se c'è stata qualche pregherina in più o se è stato un colpo di fortuna, ma la domenica successiva, questo è successo circa un giovedì mi pare, la domenica, quindi 3-4 giorni dopo, la squadra ha vinto alla 5ª settimana dove non vinceva. E lui mi dice che anche l'allenatore si era accorto che qualcosa era cambiato all'interno dello spogliatoio, all'interno degli allenamenti che questi ragazzi facevano. Di conseguenza vuol dire che questa azione da leader, no? Da leader che poi diventa leader, questo ragazzo non è il leader riconosciuto, è lui che prende in mano la situazione, caccia fuori tutti quelli che non dovevano rimanere lì e decide lui di prendere in mano le redini della questione, e da lì la squadra lo battezza leader, in coabitazione con altri due, i due più anziani, e l'anno successivo rimane e viene individuato lì ancora di più come leader, punto di riferimento, punto trainante del gruppo squadra. Quindi, e lì non intervieni più di tanto come psicologo, fai l'ascoltatore, no? Ascolti, governi un po' diciamo lo stato dell'umore della persona, la parte emotiva, cioè queste cose, cerchi di ricondurlo al concetto base, cosa hai voluto fare, cosa hai voluto ottenere, vediamo se ci saranno dei risultati, se non ci saranno hai comunque dato una scossa, quindi connotiamo anche positivamente alcune cose in previsione futura. E passo la parola a te. Sicuramente scopro sempre più paralleli tra lo sport e la vita religiosa, in particolare le liturgie sportive, le liturgie della Chiesa. Domenica a Meltina avevo più di 20 chierichetti perché c'era un cambio, alcuni lasciavano, alcuni nuovi e così via. E in sagrestia è un po' come negli spogliatoi, un bordello, una cosa incredibile, no? Poi escono fuori, suona la campanella. 20 demonietti si trasformano in angioletti, serafici, bravi, ordinati, precisini, l'inchino, giù, versione, si sporta, come un solo uomo, una cosa che nel confronto gli eserciti germani, prussiani, sono dei principianti, e durante il saluto così ho detto: che belli angioletti, vero? Ogni tanto in sagrestia mi verrebbe da strozzarli, perché però hanno bisogno di sfogare, perché c'è del nervoso, c'è l'ansia, la prestazione, e devi lasciarli sfogare, devi lasciarli modo anche di far volare qualche scherzo, qualche cosa, qualche battuta, stando attento che non esagerino, perché a volte escono fuori delle cose malevole, bisogna intervenire per evitare le gambe tese e così via. I falli avvengono più nella sagrestia, nello spogliatoio, che non poi in campo, nel campo da gioco, perché lì ci sono centinaia di occhi che ti guardano, lì non puoi lasciarti andare, no? Quindi lo spogliatoio trattino sagrestia serve come ultima camera di decompressione per entrare bene in campo, no? Allora, stiamo imboccando la dirittura d'arrivo, però di carne al fuoco ne avremo tantissima. Io ricordo solo un esempio recente, ovviamente mantengo il massimo riservo in una nazionale che non è quella calcistica, ma una nazionale italiana senior, tra l'altro, dove i valori sono anteposti al regolamento di gioco. Lo scorso anno, per aver violato il segreto dello spogliatoio, un ragazzo promettente di 21 anni si è giocato per sempre la nazionale, il gruppo lo ha escluso. Questo per dirvi che ci sono delle realtà particolari. Un ultimo passaggio, proprio ultimo, Gabriele, concedicelo, al caso Schwarzer. Tu hai lavorato accanto a Schwarzer da psicologo, io in un'altra veste, ho una mia opinione, tu ne hai sicuramente una tua, importante, perché ci hai vissuto e convissuto. Alex Schwarzer ha pagato per aver denunciato. Chi è in realtà Alex Schwarzer? Beh, io ci ho lavorato nel 2011, quindi un anno e un paio di mesi prima che accadesse il fatto che poi l'ha fatto squalificare, insomma. Nel senso, noi abbiamo preparato il mondiale in Corea assieme. Lui veniva da due esperienze non buone, che Berlino e Barcellona, dove non aveva concluso la maratona, si era ritirato e aveva avuto dei problemi. Forse, se qualcuno di voi ha seguito, ha visto le immagini, insomma, si è bloccato, sembrava avesse crampi, poi ha cercato di partire, si è bloccato un'altra volta, insomma, non so se ricordate queste cose così. Lui si rivolge a me attraverso la sua manager mi chiede di accompagnarlo al mondiale in Corea. Iniziamo a lavorare in gennaio del 2011 per arrivare a giugno 2011. Dunque, in febbraio, quindi iniziamo a fare un tipo di lavoro che è descritto poi nel libro, perché Alex mi ha consentito di riportare quanto accaduto. E lui si infortuna, banalità anche lì, una sciata eccetera, quindi ginocchio fuori uso per un po', quindi viaggi della speranza a Pavia, dove mi ricordo mi telefonava, mi diceva cosa gli aveva detto l'ortopedico, questo grande specialista degli ospedali di Pavia eccetera, e lì cambiamo proprio tipo di preparazione, nel senso che abbiamo cercato di stare sulla 50 km il più possibile, poi siamo passati invece, abbiamo dovuto optare, perché non ce la faceva proprio la preparazione fisica, non poteva essere raggiunta per concludere una 50, abbiamo optato per la 20. In quel periodo lì avevo anche conosciuto, oltre a Carolina, perché stavano insieme, erano coppia ancora, anche l'allenatore della nazionale, Didoni, con il quale ci siamo scambiati un po' il percorso che c'era da intraprendere, lui dalla parte fisica, io per la parte fisica ed interpretazione della gara, e io per la parte psicologica, proprio perché Alex veniva da Barcellona e da Berlino, dove aveva avuto quei problemi. Abbiamo dovuto cambiare in corsa dato questo infortunio e obiettivo della 20 km è stato arrivare in fondo, perché c'era un'umidità, mi ricordo, impressionante dell'aria, non è la sua distanza per elezione, anche se lui è molto bravo anche sulle distanze, era molto bravo sulle distanze un po' più brevi, e quindi è arrivato lì dove doveva arrivare, e quindi in questo senso l'obiettivo è stato raggiunto, anche se non è arrivato a medaglia, perché l'obiettivo non era necessariamente la medaglia, perché razionalmente la medaglia non poteva essere, diciamo, tra le cose più papabili, ecco, no? Diciamo. Un obiettivo molto importante nel mio lavoro è quello di lavorare con lo sportivo per raggiungere delle mete che siano realistiche, raggiungibili. È inutile dire che noi due, perché siamo preparati da un punto di vista mentale, o Don Paolo perché ha dall'alto qualcuno che gli dà una mano, andiamo a fare una maratona e la vinciamo. Se tutti gli altri muoiono, noi arriviamo a quattro zampe alla maratona e a quattro zampe arriviamo in fondo, perché ci manca tutta la parte fisica, la parte tecnica, l'allenamento, eccetera. Quindi non è che perché fai del training mentale o fai della psicologia dello sport insieme a un atleta hai la garanzia che l'atleta arrivi in fondo, arrivi primo, arrivi secondo, eccetera. Quindi c'è tutto questo lavoro. Per quanto riguarda invece le cose che gli sono successe, beh, lui ha pagato sicuramente per un errore che ha fatto, è riportato nel libro anche 10 giorni dopo Londra, mi ha chiamato e si è scusato. Io era tantissimo che non lo sentivo e non lo vedevo più, ma tantissimo tempo, si parla di un anno circa, anche qualcosina più di un anno, e si è scusato e l'ha fatto poi pubblicamente anche via stampa, perché diceva di aver deluso tantissime persone che avevano creduto in lui, che avevano lavorato con lui quando stava bene, invece poi aveva intrapreso questa strada, eccetera. Questo è stato il primo momento, insomma, e lì ha pagato per una cosa che ha fatto, anche se, e questo io lo vorrei dire così come l'ho detto in occasione di Merano, non si tiene conto di una cosa, diciamo, ha pagato per quello che ha fatto e va bene così, punto. Però non si tiene conto di una cosa, che a differenza di tanti altri soggetti che si sono dopati, anche nella gara della 20 km di Daegu che lui ha fatto, è arrivato nono, però poi è arrivato più in avanti in classifica perché erano squalificati 2-3 per doping. Quindi anche, ecco, quegli atleti lì, loro sono entrati in gara. Alex nel 2012 non è riuscito ad arrivare dopato a fare la gara. Avrebbe potuto rinunciare all'urina, a far l'urina, perché puoi rinunciare a 2 urine. Cioè, se ti dicono falla, dici no per 2 volte, in un anno puoi dire di no. Lui poteva dire di no perché aveva rinunciato ad una parecchio tempo prima, e alla seconda invece ha detto la faccio ugualmente, pur sapendo che aveva qualcosa in corpo che era... non ce l'ha fatta più. E questo, se mi dici che persona è Alex, Alex è questo, quindi arriva fino a un certo punto ma non arriva a compiere l'atto finale di andare in gara dopato, e questo secondo me salva la persona, perché vuol dire che non sei disonesto fino in fondo sperando che non ti prendano, vuol dire che hai una tua realtà morale, a mio avviso, questa è la mia interpretazione, posso anche sbagliare, ma per averci lavorato assieme, proprio per averlo conosciuto come Alex in una fase di difficoltà, hai una tua realtà morale tua che ti porta a dire non arrivo fino in fondo a farla completa, la stupidaggine. Poi possono anche non prendermi, perché se non mi fanno la prova vinco secondo, terzo, ventesimo, quello che è, no? Ma non arrivo, non ho il coraggio di portare a termine una malefatta. E in questo senso, da un punto di vista, quando mi ha telefonato, in questo senso, da un punto di vista dell'essere umano, Alex Watzer, bisogna dire tanto di cappello, ma non per quello che ha fatto, per non aver compiuto l'atto finale, cosa che altri suoi colleghi di mestiere hanno fatto e poi sono stati squalificati, oppure non sono stati squalificati perché non li hanno presi. Nella seconda tornata di Alex, questa seconda volta, eccetera, e lì non occorre andare molto lontani, nel senso che queste prove che arrivano, non arrivano, stanno a Colonia da 2 anni o 3 anni, e poi ci sono delle prove che vengono toccate o ritoccate, ma non è lui, è un altro. È un sistema nel quale queste prove stride il fatto che sia successo qualcosa di grave per lui, cioè secondo me è successo qualcosa di grave dopo, no? Nel senso che secondo me qui qualcuno ci ha messo la mano, no? Ci ha messo la mano e ha pagato, insomma, ha pagato insieme al suo allenatore, che è una persona che è sempre stata contro il doping. Lui ha voluto fare anche questo atto aggiuntivo di scegliere proprio una persona che lo affiancasse e che lo accompagnasse proprio in relazione al fatto che aveva compiuto prima, no? Al fatto del 2012. Io l'ho lasciato nel giugno del 2011 e anche per me è stata una roba che è piovuta dall'alto. La cosa peggiore che mi è successa, e qui concludo, giusto per dire anche cosa ha lasciato Alex, no? Lui è venuto a casa mia parecchie volte, insomma ha conosciuto, è venuta anche Carolina a conoscermi, eccetera. La cosa peggiore che è successa è che mio figlio, che al tempo aveva 7 anni circa, quando ha saputo, gliel'abbiamo detto, guarda che è successo che Alex, gli abbiamo spiegato poi sommariamente cos'era il doping, ha pianto. Il pianto disperato di un idolo, no? Di un idolo che aveva conosciuto in casa nostra, che è crollato, no? E quindi quello è stato il momento, diciamo il momento da un punto di vista emotivo, hai sentito proprio la sofferenza di questo bambino perché gli era crollato l'idolo che aveva conosciuto, che gli aveva regalato la maglietta e tutte queste cose qui, no? Ecco, questo è Alex Watzer. Questo è Alex Watzer visto al di là della prestazione sportiva. La scelta di Dabassi era stata sua personale o era stato poi pensato? Allora, dalle cronache. Dalle cronache diciamo che lui è finito 2 volte nel tritacarne, nel post Pechino, allora, le Olimpiadi di Pechino le ha fatte da pulito, così è stabilito dagli esami e da tutte quelle situazioni che poi sono tutti i controlli, esatto, necessari. Nel post Pechino c'è stata l'esigenza forte di dover alzare l'asticella perché sarebbero rientrati alle competizioni atleti di altre nazioni, russi in particolare, con dei tempi decisamente significativi e importanti, quindi per tutti gli azzurri è stata alzata l'asticella e lì è finito per la prima volta in un tritacarne. Nel tritacarne c'è finito la seconda volta, suo malgrado e inconsapevolmente, per tutto quello che è successo, con tutti i punti morti, tutte le situazioni anomale che stiamo ancora analizzando e che sono sotto gli occhi di tutti noi. È impensabile comunque, per aver conosciuto Alex in un determinato momento, soprattutto quello nel post-confessione e nel suo periodo, chiamiamolo in maniera sintetica, di riabilitazione, che possa aver compiuto anche inconsapevolmente una sciocchezza successiva, perché lui ha ammesso, prima di iniziare il percorso di recupero, che ha ammesso e ha gratificato una serie di persone che hanno investito anche economicamente su di lui per dargli una mano a tornare, mai e poi mai le avrebbe tradite, e questo credo che gli faccia onore come persona. Poi i fatti ci stanno dimostrando, c'è ancora un'inchiesta in corso, che forse la realtà di quello che è stato chiamato in maniera sintetica complotto sta venendo a galla. Però è altrettanto vero, sempre in estrema sintesi, che a chi confessa e chi si pente nel mondo dello sport il sistema non ti gratifica, tutt'altro, perché per molto di più rispetto, ma questo è un discorso da bar che però possiamo fare, per molto di più rispetto a quello che ha fatto Schwarzer, ci sono degli atleti di altre discipline più popolari che sono tornati a correre, stanno correndo liberamente e anzi sono stati anche ripresi e hanno fatto un altro periodo di sospensione e sono ritornati a gareggiare, quindi sospesi per 2 anni, per 2 anni invece di 4, e sono tornati. Gli ha dato la pena maggiore. Il Big Ben ha detto stop, avremo tante altre belle cose da dirvi. Vi ringraziamo della vostra partecipazione, vi ricordiamo che il libro è qui a disposizione in occasione delle presentazioni. Il libro costa 10 euro anziché 12 e, come ha detto Gabriele prima, il ricavato viene devoluto interamente a Sportif per le nobili cause che persegue Sportif. Vi chiedo un applauso di ringraziamento per Giorgio Cagnotti, per il visto che c'è qui, Don Paolo Renner e per Gabriele e la sua fatica di te. Grazie e buona giornata. Grazie Daniele. La moderazione. Se legge le prime righe lo scopre, perché l'ho già detto prima. Esatto.